Lo SPID. Che cos'è e a cosa serve lo SPID? Lo SPID è il sistema di autenticazione che ti permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'identità digitale unica che si chiama identità SPID. Con l'identità SPID puoi richiedere certificati anagrafici, iscrizione al nido e alla scuola per l'infanzia, puoi pagare tasse e tributi, eccetera. Per usare l'identità SPID ti danno delle credenziali, cioè un nome utente e una password.